Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Pochi centimetri di mescola a base di gomma rinforzata con tela. Tutta la tecnologia automobilistica di oggi e domani alla fine passa da lì, dagli pneumatici. Non importa se il veicolo è alimentato a gasolio o a metano, che sia un veicolo ibrido elettrico o a idrogeno. È come con le corde di una chitarra. Se sono vecchie e arrugginite, anche il miglior strumento del mondo comunque suonerà male. Ecco perché gli sforzi per migliorare gli pneumatici sono continui. E d'altra parte, l'impresa non è di quelle semplici. Uno pneumatico ideale deve rotolare col minimo attrito e allo stesso tempo avere un'aderenza elevata. Deve mettere poco particolato, fare poco rumore. E questo con il sole, con la pioggia, in tutte le condizioni. Ma il vero guaio è che questo mix di caratteristiche è pieno di quelle che in gergo si chiamano trade-off, cioè cose che non si possono migliorare senza il rischio di peggiorare qualcos'altro. Insomma, viene il sospetto che ci voglia più un mago che un chimico. Lei a quale ordine è iscritto, Baiocchi? Maghi o chimici? No, direi nessuno dei due, siamo soltanto degli ingegneri che lavorano per cercare di allargare questi trade-off non facilissimi da risolvere. Allora, Maurizio Boiocchi, vi presento il nostro ospite, responsabile della ricerca e sviluppo di Pirelli. Ecco, partiamo proprio da questo concetto del trade-off, mi sembra anche interessante spiegarlo. Ci fa qualche esempio di questi conflitti? Certo, uno dei primi conflitti che si devono affrontare è appunto quello di fornire la massima aderenza su un fondo asciutto bagnato rispetto a una durata, perciò a una vita del pneumatico in termini di abrasione, per cui avere la tenuta e avere una resa chilometrica molto, molto alta diventa un fattore di conflitto molto, molto importante. Perché se uno fa, diciamo, questa mescola più morbida, aumenta l'aderenza, ma lo pneumatico si consuma molto più in fretta. E questo è un esempio, no? Esattamente, come vediamo ogni 15 giorni nei vari Gran Premi di Formula 1, dove le mescole o i pneumatici a mescola più morbida chiaramente danno una prestazione molto più brillante, molto più estrema, però hanno una durata che è ridotta rispetto ai pneumatici più duri. Altri aspetti conflittuali? Altri aspetti conflittuali sono la resistenza al rotolamento, perciò il consumo di carburante, le emissioni di CO2 rispetto sempre alla tenuta e al grip su asciutto e bagnato. In questo caso gioca parecchio la cosiddetta isteresi, cioè la quantità di energia che viene assorbita dal pneumatico per modificare la sua geometria, da toroidale diventa piatto ogni volta che va sotto l'area d'impronta, e in questo ciclo continuo e ripetitivo parecchia dell'energia viene dissipata. È proprio la deformazione che subisce il materiale quando tocca il suolo, si schiaccia. Lì si consuma un po' di energia, infatti lo pneumatico si scalda, non a caso. Esatto. Ecco, senta, un altro aspetto di cui si parla è quello del particolato, perché anche gli pneumatici, frenata dopo frenata, diciamo per attrito, si consumano e ne emettono un po' di particolato. Si sta facendo qualcosa per rendere più compatibile con l'ambiente queste emissioni di particolato, per ridurle e magari anche migliorarle qualitativamente? Beh, si sta lavorando sull'analisi di quanto sia questo particolato, quanto può essere la parte in gomma a brasa, ma anche quanto l'asfalto si consuma. Certo. Chiaramente l'origine chimica di una mescola piuttosto che di un fondo stradale determinano poi non soltanto la dimensione della particella, ma anche la sua nocività. Ci sono, certo, studi a proposito che stanno analizzando e valutando come migliorare questo aspetto e rendere questo aspetto il meno impattante possibile. Certo. Ecco, senta, gli pneumatici tra l'altro sono forse il rifiuto meglio differenziato in assoluto, siamo praticamente al 100% di raccolta differenziata. È possibile che in futuro si possa arrivare ad uno pneumatico bio? Sì, ci sono degli studi, delle attività continue per il recupero, il riutilizzo, cioè generare una materia che non è più prima ma è seconda, per reintrodurre i componenti del pneumatico usurato a fine vita all'interno del pneumatico nuovo. Mm. Così come per quanto riguardava la sua provocazione di un pneumatico bio, stiamo anche lavorando all'interno di materie prime ottenute da fonti rinnovabili. Mm. Abbiamo anche recentemente attivato un lavoro attraverso il quale produciamo silice che serve per le mescole dei pneumatici, bruciando e lavorando la lolla del riso, che ha un contenuto di silice molto, molto alto, elevato, sì. Di conseguenza, anziché usare la sabbia, bruciare petrolio, bruciamo questo residuo agricolo e riusciamo a ricavarne una quantità di silice industrialmente adoperabile. Ecco, senta, noi stiamo parlando di una sorta di pneumatico intelligente che si consuma poco, funziona bene in frenate e tutto il resto, ma a proposito di intelligenza, adesso un tipo di intelligenza, direi informatica, sta proprio per entrare negli pneumatici che conterranno in futuro chip o qualcosa di questo genere. Che cosa ci si aspetta da questa innovazione? Dunque, un pneumatico moderno, per dare il massimo delle proprie prestazioni, deve lavorare in un intorno di pressioni di gonfiamento, temperature di esercizio, diciamo, allineate ai dati di progetto. Di conseguenza, tutto quanto possiamo fare, in questo caso mettendo un chip all'interno del pneumatico, è in grado di dare in tempo reale all'interno della vettura in quali condizioni stiamo adoperando i nostri pneumatici e darci un allarme quando questi limiti vengono superati, è fondamentale per avere il bilancio completo in termini di sicurezza, perciò di frenata, di grip, di usura, perché un pneumatico sottogonfiato si consuma molto rapidamente, di consumo carburante, perché abbiamo detto prima, certo, la deformazione diventa più grande e di conseguenza tutto il sistema diventa meno efficiente. Perciò questo è un primo passo, ma abbiamo già generazioni successive dove il sensore è in grado di misurare il coefficiente d'attrito della strada in maniera puntuale, dialogare con l'elettronica di bordo e di conseguenza regolare dal sistema di frenata al traction control o sistemi di stabilità del veicolo, considerando esattamente il coefficiente d'attrito che in quel momento incontriamo sulla nostra strada. Quindi ottimizzando il comportamento del veicolo sostanzialmente, sì, sulla base della superficie sulla quale si sta muovendo. Questo è un po' il concetto. Esatto. Grazie Maurizio Boiocchi. Grazie a voi, arrivederci. È tutto, a domani.